It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, K e Drago si accorgono di avere fame. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Ma è un inferno. Drago, la fabbrica di polli non chiude mai. Lo so, ma è un inferno, lavorano sempre, non hanno mai... Aspetta un attimo, la voce... Ma senti, ma dice cose diverse di volta in volta? Ma adesso non si capisce però, siamo in una zona della fabbrica troppo rumorosa, ma qui non si capisce... Ehi, niente. Oh, oh, oh, sta... occhio lì, sta attento. Cosa c'è? Non muoverti, non muoverti. Cosa c'è? Suspense! Guarda qui cosa trovate. Vabbè, Drago, è un uovo. Qui, un altro uovo. Due uova. Finora non abbiamo ancora mangiato niente. Siamo in una fabbrica di polli. Non so, o un pollo arrosto o un uovo fritto. Insomma, le cose sono queste. Quindi, cominciamo dall'uovo fritto. Cominciamo dall'uovo fritto. Ah, finalmente si mangia. Oh, molto appetitoso. In effetti, un uovo fritto. Un uovo fritto non è il massimo del massimo. Però mi accontento. Mettici un po' di sale sul tuorlo, però, sì, perché se no non mi piace. Stai calmo, sto cucinando io. Lola, Umberto. E Lola, Umberto, veramente siamo K e Drago. No, ma il pollo in sbattimento, Drago. Ma scusate, avete fritto mio nipote Umberto e mia nipote Lola? No, noi abbiamo fritto due uova. Sì, che abbiamo trovato due uova lì da parte. Io ho capito, da parte. Ma erano da parte perché sono miei parenti, no? Sono, saranno tuoi parenti, sarebbero diventati, esatto. Anzi erano semmai, non so, erano, comunque . Ormai qui... Sì, appunto, adesso sono fritti e io sono in sbattimento, no? Lo sapete anche come funziona qui. Sì, che sei in sbattimento, perché vivi in 15 centimetri quadrati, sì, con un sacco di altri polli, prendi, Appunto. Però prendi la paroxetina, ti danno la paroxetina nel mangime, quindi ma poi sai, scusa, i tuoi nipotini alla fine erano ancora uova, quindi giustamente, come diceva lui prima, non possiamo considerarli i tuoi nipoti, sono uova, erano uova. Adesso sono Io ho capito, ma l'embrione ha dignità di individuo, L'embrione ha dignità di individuo, su questo ci sono state, mio caro pollo in sbattimento, e ci saranno sempre delle discussioni, quindi non puoi arrivare e dire Ma che discussioni? Le cose stanno così. Discussioni. L'embrione è un essere vivente, fatto e finito. Ma proprio sul fatto è finito che ci sono le discussioni. Ma scusate, ma lo sapete che un embrione di pulcino come quello che state friggendo ha già un piccolo beccuccio appena appena abbozzato? Ma che schifo, dai. Vabbè, non ti preoccupare, Drago, poi friggi, sparisce tutto. Beccuccio, penne. Il beccuccio abbozzato dei miei nipoti. Dai, non piangere. Beh, intanto io un becco ce l'ho però, Fatto e finito. Quello sì, fatto e finito. Infatti non ti friggiamo. Sì, però alla lunga potremmo anche... Zitto, ma dai. Uè, ma guarda, capo che ti ho sentito, No, ma lui scherzava. No, ma non scherzavo. Gli tagliamo la testa, gli facciamo fare due o tre giri del corridoio così senza testa per ridere un po', ridere un po'. E poi lo spegniamo senza testa, lo cacciamo nel forno senza testa, ma ci mettiamo le patatine. Poi potremmo anche farcirlo da dietro. E mettergli un pulcino. Beh, intanto... Tanto non riuscite neanche a prendermi. Ma sì, perché corro veloce e poi mi difendo beccate e voi lo sapete beccate, che beccato io. Beccate sì. Che beccate tu ne hai date di beccate, cioè ne hai prese tante. Sì, ma ne do di più, sono più quelle che do che quelle che prendo. Vabbè. Poi a voi ve le do e basta. E poi comunque ci sono migliaia di polli senza becco e proprio a me dovete mangiare. Sì, ma infatti. Ma poi è vecchio, non lo vedi che è vecchio? Vabbè, su questo Drago si sa, gallina vecchia fa un buon brodo. No. Appunto, solo il brodo, la carne è dura, dai. Uè. Gallina chi? Per le feste di Natale le famiglie si riuniscono nel rito sacrificale. Quando cazzo mai finiscono e ogni casa si somiglia, con gli affetti sulla griglia, sempre uguale per noi polli di Natale. La fabbrica di polli. Le pollastrelle. Vogliamo parlare delle pollastrelle? Parliamone. Come sono queste pollastrelle? Diciamo che me le guardo quasi tutte. E poi come sono queste pollastrelle? Intanto sono giovani e disperate. Perché lo sanno che qui la vita non è mica tanto divertente, eh? Niente discoteca, niente il CD, niente pantaloni a vita bassa, il ristorante, il gelatino. Qui è solo fare uova, uova e uova. Altro che il flirt. Il flirt qua non ce n'è. Il gelatino in macchina o ti porto fuori domani. Qui la faccenda è diversa, eh. Qui amore nel sesso dei polli non ce n'è. Qui per fargli fare le uova ne mettono 7-8 in un gabbiotto. Poi ci sbattono dentro un gallo che fa il suo lavoro, eh. I nostri polli possono andare a cresta alta. E guarda che male che vada ne lascia fuori due, eh. E altre le mette a posto tutte. Quindi qui di sentimento non ce n'è. Intanto nel cielo sopra la fabbrica di polli brilla fioca una luna incerta. Ma però perché crescono i capelli di notte? Cioè con la perché luna? Perché c'è la luna, no? Che li tira. Crescono solo con la luna i capelli? Sì. E di notte, di giorno stanno fermi? Ma penso di sì. Cioè i capelli crescono soltanto di notte? Sì. Infatti adesso ti stanno crescendo. Prova a guardare. Scusami. Se crescono di notte vuol dire che tutto il giorno loro stanno fermi, sì. Noi veniamo a letto, o quando siamo fuori a bere l'aperitivo e c'è la luna, loro cominciano a fare ma fanno rumore, prova a sentire. Oh, scusa, non è... era un capello. Vabbè, e questi continuano a produrre polli in tedesco. E noi non riusciamo a capire come fa a essere sempre mezzanotte. Magari è tutto un sogno, Drago. Lasciati andare, vedi, i sogni sono percorsi nella nebbia, ti ricordi? Vedi, puntata numero 1. Sì, però, qui, percorsi nella nebbia, però, qui oltretutto... Sì, lo so, Drago, lo so, nella fabbrica di polli il dato più evidente è sempre quello della puzza, d'accordo? La puzza di fabbrica di polli. Però il sogno... Sì, e la mia macchina, K? Ma cosa la tua macchina? La mia macchina, l'abbiamo lasciata spettasciata contro un guardrail qua fuori. Vabbè, adesso troviamo un'uscita, chiamiamo il carro attrezzi. Bene, tanto anche la tessera dell'ACI. Ah, bravo, bravo. Io sono molto previdente, K, io pago, pensa che pago una persona apposta che tutto il giorno... trova scuse per chiedere rimborsi alle aziende private di cui mi servo. Cioè cosa fa? Lui pensa tutto il giorno. Pensa? Sì, lui passeggia per l'ufficio, fuma una sigaretta, beve un caffè, si toglie le scarpe, poi prende una bacinella con l'acqua tiepida, ci mette i piedi, poi si alza, lascia le impronte e si impiastrisce i piedi con lo sporco del pavimento e va a guardare dalla finestra. Fuori dalla sua finestra il paesaggio è molto squallido, così si stanca presto di stare alla finestra e torna al pediluvio. Beh, molto interessante, eh? Però, K, mentre fa tutto questo, lui ha elaborato un pretesto senza fondamento reale per chiedere i danni all'azienda municipale dei trasporti e pianta su tutto un intrigo di palazzo che alla fine mi frutta qualcosa. È molto utile, una specie di parassita del terziario. Una specie di... parassita del terziario! Il parassita del terziario si annida tra le pieghe della legislazione vigente in materia di rimborsi per mancata fruizione di servizi e riesce a vivere fino a che l'ente al quale si aggrappa non è completamente dissanguato. Sfruttato al massimo un fornitore, passa velocemente ad un altro. Il parassita del terziario è una creatura fisiologicamente simbiotica con il sistema della fornitura di servizi e in qualche misura è utile all'ecosistema economico organizzativo che apparentemente danneggia. Hai capito? Io ho un parassita del terziario e poi ho anche un rogito. Però quello con calma. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli. Good night, ladies and gentlemen, good night.